4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Amici dei motori, buonasera, bentornati ancora una volta in compagnia di Radio 24 e di Quattro Ruote per parlare esclusivamente di motori. Alfa Romeo Mito 1600 JTDM Distinctive, questo è l'allestimento provato con Marco Ghezzi di Quattro Ruote, che è già in linea con noi. Allora, caro Marco, bentornato. Grazie, buonasera a tutti. Dopo la tua voce, gli ascoltatori sentiranno la voce del presidente di Eurasia Motor Company, che è l'importatore ufficiale di Great Wall. Sono cinesi, costruiscono auto che promettono di conquistare il nostro mercato con prezzi bassi e finalmente una sicurezza acquisita. Guido Ognissanti, poi parleremo con il presidente del SITEB, che è l'associazione che rappresenta la filiera dell'asfalto. Chiuderemo con Roberto Barone, con il metano, e l'avvocato Lievore ci parlerà di fermi amministrativi, guai e dolori anche per il nostro portafoglio. Tutto questo per circa tre quarti d'ora da questo momento. Allora, Marco Ghezzi, una bella introduzione ad una delle Alfa Romeo che ha fatto più discutere ultimamente e quasi solo positivamente, Alfa Romeo Mito. Sì, è un'auto che ha delle caratteristiche molto particolari, perché è una cittadina sportiva, un'auto molto compatta, adatta ad un pubblico giovanile, donne, gente che vuole muoversi abbastanza dinamicamente, ma che quando poi si esce e si va nel traffico extraurbano è un'auto che dà delle soddisfazioni, quindi da un lato è cittadina compatta, dall'altro è un'auto che può anche divertire. Per la gioia di chi ama la guida, di chi ama l'Alfa Romeo, ma saremo anche severi su questo. Sentiamo allora la prima scheda che abbiamo preparato insieme. La versione diesel consuma proprio poco, fa anche 18 km con un litro. C'è tanta elettronica a bordo, ma in frenata, in situazioni estreme, talvolta non basta. Quando la TV trasmetteva in bianco e nero, le Alfa coloravano già le strade di passione sportiva. Oggi i modelli del Biscione hanno ancora la stessa antica vocazione, la Mito in testa. Eppure, quella che è considerata la 8C in piccolo non potrà mai essere un'Alfa come quelle di una volta. Non ha più quelle soluzioni tecniche esclusive, vanto della casa. Ha il pianale dell'appunto e i motori in comune con altri modelli del gruppo Fiat. Eppure, non c'è il rischio, mettendosi al volante, di ritrovarsi a guidare un'auto qualunque. Una trazione anteriore molto rassicurante, che perdona quasi tutto, ma che non potrà mai dare le stesse sensazioni di una completa trazione posteriore. E che deve anche fare i conti col servosterzo elettrico, che ha senz'altro tanti vantaggi, ma fa un po' da filtro tra il volante e la strada. Tuttavia, nell'insieme, la guida non è affatto sgradevole, tutt'altro. Nome: Alfa Mito 1600 JTDM 16 valvole. Carrozzeria: 3 porte a 4-5 posti. Dimensioni: lunghezza 4,6 m, larghezza 1,72 m, peso 1205 kg, motore anteriore trasversale turbo diesel 4 cilindri in linea, potenza 109 cavalli, trasmissione, trazione anteriore, cambio manuale a 6 rapporti, prezzo da 20.751 euro. Marco, se sei d'accordo, direi di partire da quest'ultima caratteristica, 20.751 euro e da lì in su. Che prezzo è rispetto ai competitor? Beh, tutto sommato è un prezzo competitivo e quindi è un'auto che, diciamo, sul mercato ha delle buone possibilità di affermarsi, infatti ha un discreto successo in questo momento. È un'auto che ha la caratteristica di essere soprattutto un'auto per chi vuole divertirsi, perché sia per la linea sia per la forma compatta e poi per alcune caratteristiche intrinseche è un'auto che può dare delle soddisfazioni come poteva essere una volta un Alfa Romeo. Magari non è come le Alfa Romeo di una volta, però qualche soddisfazione la dare. Poi c'è sempre il fascino di avere questo manettino che ti consente di modificare la gestione del motore e dello sterzo, di trasformare un'auto da confortevole in sportiva. Certo, dove si trova esattamente il manettino e come funziona? Si trova in basso sulla plancia, dove è possibile semplicemente con delle brevi pressioni modificare la risposta dell'acceleratore, la risposta dello sterzo, che può essere più o meno morbido, più o meno diretto. E poi cambia anche sostanzialmente la dinamica dell'elettronica, quindi che diventa meno invadente. I controlli, certamente. Senti Marco, io credo che questa volta abbiano azzeccato il design, non so se sei d'accordo, è molto alfa, ma che cosa manca, ti chiedo invece, per essere quell'alfa di una volta che faceva felici gli alfisti dicendo, insomma, ho proprio un alfa, questa cosa qui non ce l'ha nessuno? Beh, forse è una tecnica esclusiva, nel senso che sotto è una Fiat, quindi la tecnica di un Alfa Romeo con un motore Alfa Romeo, e poi questo motore è stato aggiornato e modificato proprio in funzione del cliente Alfa Romeo. Diciamo che proprio la tecnica che non è esclusiva, non è un Alfa Romeo, ma è una Fiat, quindi magari qualcuno potrebbe storcere il naso. Voi sapete che ultimamente delle ultime 4 prove parliamo sempre anche di peso e di cavalli, allora i 1205 kg con i suoi 109 cavalli significa che il motore deve spingere in ogni cavallo 11,05 kg. Siamo lontani da quel 6,39 kg per ogni cavallo della Golf GT, ma è un'altra auto. Siamo paradossalmente più vicini al 13 kg per ogni cavallo della Peugeot 3008, ma anch'essa è un'altra auto. Insomma, qui siamo ad un livello in cui è divertente, un buon assetto, si modifica l'auto, però certo ogni cavallo spinge 11 kg. Sentiamo insieme la pagella con la quale diamo i voti all'Alfa Romeo Mito e poi ci salutiamo. Posto guida. Impostazione quasi ottimale. Regolazioni manuali ampie. Perfetto l'appoggio del piede sinistro. Voto 5 stelle. Finitura. Ben curata all'esterno, margini di miglioramento dentro, soprattutto a livello plastiche. Voto 4 stelle. Comfort. Le sospensioni filtrano bene, pur con un assetto piatto. Rumore entro limiti accettabili. Voto 4 stelle. Motore. Un po' pigro sotto i 1700 giri, prende via via vigore e allunga con decisione. Rumore contenuto. Voto 4 stelle e mezza. Su strada. Risulta più gradevole e divertente agendo sul manettino e impostando l'assetto più sportivo. Voto 5 stelle. Allora, questi erano i voti per l'Alfa Romeo Mito. Marco, direi di riassumere allora in un paio di minuti insieme i 2-3 pregi fondamentali di quest'auto. Ci mettiamo dentro anche il target giovanile preciso e anche tiriamo fuori qualche difetto oltre a quello che abbiamo detto. Prego. Sì, allora per quello che riguarda i pregi sono essenzialmente le prestazioni, perché è comunque un'auto brillante, ma poi anche i consumi che sono tutto sommato ragguardevoli, perché si possono fare anche 18 km con un litro su un tratto extra urbano, città 12-13 km. Per quello che riguarda i difetti direi la finitura che non sempre in tutti i dettagli è all'altezza, e poi c'è quel piccolo problema che però potrebbe essere un problema importante, che in frenata in particolari caratteristiche ha la tendenza a scodare un po', e la frenata viene quando si fanno, e lo abbiamo provato, verificato in pista, quando si fanno dei test di frenata su un fondo ad aderenza di frenata, che chiamiamo muslit, dove due ruote sono su un bagnato che simula il ghiaccio e le altre due sull'asfalto bagnato con maggiore aderenza. In quel caso lì la frenata, la vettura tende un po' a scomporsi, ecco, questo è l'unico problema. Molto bene, vorrei ringraziare Marco Ghezzi di Quattro Ruote. Marco, grazie per questa prova, ci risentiamo più avanti per altre avventure su Quattro Ruote. Ciao. Ciao, grazie a voi. Quattro ruote e dintorni. Allora, nel sommario iniziale parlavo di Cina. Sapete che nel campo automobilistico Cina è tutt'altro che un argomento attuale, anzi negli anni scorsi qualcheduno paventava l'invasione entro il 2010 di auto cinesi in Europa. Questo non è avvenuto, non avverrà nei prossimi 6 mesi, quindi ogni tanto qualche Cassandra c'è sempre. Però che cosa c'è dietro? C'è in realtà una realtà molto interessante, una realtà imprenditoriale e costruttiva che sta facendo passi avanti mentre noi sonnecchiamo sulla nostra crisi. Potrebbe chiosare un po' così l'atteggiamento di snobismo europeo che si basa su decenni di costruzione di automobili di altissimo livello e però su un'imprenditoria cinese che sta facendo veramente passi avanti. Se le prime auto avevano problemi addirittura a essere omologate secondo i nostri standard di sicurezza, oggi si sono dotati i cinesi di impianti che simulano le omologazioni addirittura. Questo vuol dire sfornare prodotti in linea con quello che il mercato richiede, tra l'altro che costano poco e minacciano veramente di conquistare conquistare il mercato. Ne parliamo con il presidente di quello che è considerato l'importatore ufficiale di una delle case cinesi più conosciute in Occidente, la Great Wall, la casa importatrice si chiama Eurasia Motor Company, Guido Ognissanti. Buonasera presidente. Buonasera. Senta, ci vuole intanto fare un'introduzione di Great Wall. Che cos'è? Chi è questa casa automobilistica? Di chi è e che cosa fa? La Great Wall è una casa automobilistica cinese di proprietà privata, quindi con iniziativa privata e capitale sociale privato, con circa 20.000 dipendenti e quotata nella borsa di Hong Kong. Ci dà qualche numero per capire quanto sia grande, quanto sia capace di sfornare automobili Great Wall? Allora, la capacità di produzione della Great Wall ad oggi è di 400.000 macchine. Chiaramente non si nasconde l'obiettivo di poter raddoppiare, con la previsione di costruzione di una nuova fabbrica nelle vicinanze di Baoding. Beh, certamente. Voi che cosa fate per loro? Importate che cosa e dove? Noi importiamo ad oggi un crossover, è chiamato Over, e un pick-up Speed. Lo importiamo in Italia e con una rete di circa 90 concessionari. Che cosa succederà a queste autovetture? Oggi ne abbiamo due sul mercato, una si chiama appunto Steed, è un pick-up, e l'altra Hover ed è un SUV. Intanto le chiedo una descrizione di queste vetture, presidente. Allora, la Hover è un fuoristrada innanzitutto, con 4 VD, compreso le ridotte, e praticamente è un fuoristrada a tutti gli effetti con motorizzazione Mitsubishi che noi forniamo a GPL. Lo Steed è sempre un pick-up con motorizzazione sempre Mitsubishi e anche questo proposto con 4 VD e le ridotte. Ecco, le vendite tra l'altro sono comunque 3 su 4 in versione 4WD, questo è il mercato che lo richiede. Abbiamo anche dei prezzi che riescono ad essere, diciamo così, agevolati da ecoincentivi, incentivo alla rottamazione. Per lo Steed si parla alle due ruote motrici di 12.700 euro come prezzo di partenza e per Hover due ruote motrici da 17.280 euro. Ci fa capire chi in Italia apprezza queste vetture? Allora, in Italia apprezza queste vetture chi ad oggi, diciamo, era abituato con questi prezzi a prodotti decisamente meno importanti. Chiaramente ultimamente abbiamo avuto anche una clientela che addirittura si è abbassata, nel senso a spendere meno soldi per avendo capito che effettivamente il prodotto qualità-prezzo è molto importante. Se in un salotto qualcuno le dice sì, belle parole, però le auto cinesi non sono sicure, lei che cosa gli risponde? Guardi, noi come Eurasia innanzitutto sin dal 2006 tramite il nostro ministero abbiamo certificato la fabbrica, sì, e abbiamo curato le prime omologazioni, quindi addirittura la nostra Great Wall ha nel proprio interno il test del crack test, quindi riconosciuto dal VCE che è l'ente inglese per l'omologazione. Quindi a tutti gli effetti come le altre vetture sul mercato. Direi che da questo punto di vista possiamo stare molto tranquilli, anche perché ha dichiarato ultimamente il proprietario, il presidente della Great Wall, che sono intenzionati ad entrare in Europa per rimanerci per tanti anni. Certo, e questo la dice lunga sui programmi. A proposito di programmi, a Shanghai, alla fiera di Shanghai è stato presentato il primo diesel, ce ne parla? Alla fiera di Shanghai, per cui noi siamo stati presenti, sono stati presentati, oltre ai modelli che già abbiamo in Italia, altri due modelli. La Florid del segmento B, diciamo del segmento grande punto per dare un'idea, e la Colbir, diciamo Daihatsu Materia per rendere l'idea, e decisamente con finiture di alto pregio. Che cosa succederà secondo lei a queste vetture sul mercato italiano? Avete un'idea di quante vetture importare? Avete fatto dei calcoli, ovviamente, delle proiezioni sulle vendite, presidente? I calcoli fatti decisamente sono un attimino, noi vogliamo dire, coi piedi per terra, perché sappiamo che entrare in un segmento B è un segmento molto particolare. Diciamo piuttosto una cosa a nostro favore, che le due versioni avranno l'allestimento del 4WD, cioè trazione integrale, il che ci porta a un inserimento di nicchia, e essendo di nicchia quindi parliamo di numeri abbastanza limitati. Beh, questo è sicuramente, come diceva lei, una buona notizia per voi. Lei è stato a visitare anche la fabbrica cinese, ci vuole descrivere questa realtà? Guardi, la fabbrica cinese occupa uno spazio di circa 2 milioni di metri quadrati. Nel proprio interno ci sono gli appartamenti, ci sono campi da calcio e attrezzature per il tempo libero. Chiaramente c'è un'evoluzione anche da parte dei lavoratori cinesi, in quanto anche ad oggi si stanno, assomigliano tantissimo anche alle nostre fabbriche. Tra l'altro c'è un'altra considerazione da fare. In questi periodi di crisi, immagino che per alcuni cinesi, perlomeno, che la crisi non la sentono, l'hanno sentita meno, non sia difficile dotarsi di ingegneri, designer, di strutture, di know-how, per dirla in un modo solo, occidentale, perché qui c'è crisi e quindi immagino che fiocchino le proposte di lavoro. La Great Wall già ad oggi con 20.000 maestranze, di cui il 10% sono ingegneri, 2.000 ingegneri. Tantissimi spazi in Europa per lo studio e per apprendere quello che significa il significato di costruire un'automobile per l'Europa. Chiaramente si stanno avvalendo anche di collaborazioni europee. Quali sono le aree del mondo in cui secondo lei i cinesi venderanno più auto e quali quelle in cui non riusciranno ad attecchire? Chiaramente per quel che riguarda il nostro mercato, quello italiano, e intendo dire quello occidentale in assoluto, quindi Francia, Germania, sarà un attimino un po' più difficile. C'è da dire che loro sono già presenti nei paesi dell'est e soprattutto anche in Russia, dove chiaramente sono più agevolati nelle vendite. Decisamente. Io volevo ringraziare il presidente di Eurasia Motor Company, importatore ufficiale di Great Wall, si chiama Guido Ognissanti. A presto, presidente, grazie. Grazie a lei, buonasera. E adesso ci occupiamo di strade. Ci occupiamo nel dettaglio di un'associazione che rappresenta tutta la filiera dell'asfalto, si chiama SITEB, la presiede Carlo Giavarini. Presidente, buonasera, benvenuto. Buonasera, grazie. Mi farebbe piacere che lei raccontasse ai nostri ascoltatori qual è lo stato di salute delle strade italiane. Poi parleremo delle aziende che le realizzano. In Italia noi abbiamo quasi 200.000 chilometri di strade principali, cioè regionali, provinciali, statali, autostrade, più circa 300.000 chilometri di strade comunali. Ecco, sì. Giusto per dare una dimensione, quindi circa 500.000 chilometri di strade, che non è poco. Di queste le autostrade sono solo 6.500 chilometri. Ecco, teniamo presente che la rete viaria è l'elemento più importante del patrimonio infrastrutturale di un paese, che quindi meriterebbe un impegno maggiore di quello che gli è dato attualmente. Questo è per dire già di un'introduzione. Quante sono le aziende che si occupano di asfalto in Italia? Le aziende che si occupano di asfalto in Italia sono tante, sono circa 600, troppe diciamo forse, rispetto ad altri paesi come la Francia, dove ci sono poche concentrazioni molto organizzate e potenti, diciamo si contano sulle dita anche di una mano, che tengono quasi tutto il mercato. Quindi questa è una caratteristica peculiare italiana. Quattro, ruote e dintorni. Siamo in collegamento con il presidente del SITEB, l'associazione che rappresenta la filiera dell'asfalto. Troppe aziende, diceva il presidente, si occupano di asfalto in Italia rispetto ad alcune realtà, per esempio francesi, così ne approfittiamo per dare una panoramica europea. Come se la passano in questo momento di mercato, presidente, le aziende che lei ha considerato troppe? Se la passano molto male, diciamo, e questo dipende sia da la crisi generale che tutti conosciamo e da altri fattori specifici. Ne cito due principali. Una è data dalle oscillazioni violente e veloce dei prezzi delle materie prime, nel nostro caso è il bitume, che incide per 35, 45, 50% sul costo di un conglomerato, e quindi sì, una variazione del prezzo tra quando uno si aggiudica un lavoro e quando lo esegue è drammatica. Il secondo è il meccanismo di aggiudicazione degli appalti, che vengono in genere dati sul massimo ribasso e che quindi è abbastanza diciamo, deleterio per la qualità dei lavori. Ecco, molti si lamentano della qualità delle strade italiane. Lei concretamente, ma anche obiettivamente, ci può dire se le strade italiane soffrono di uno stato di salute peggiore realmente, per esempio rimaniamo in Europa, rispetto ai nostri colleghi o no? Sì, io penso che mediamente soffrono di uno stato peggiore. Se poi ci confrontiamo con nostri vicini e cugini, tipo i francesi, addirittura siamo abbastanza lontani. Quindi questo appunto dipende da tutti questi fattori e soprattutto dipende da una scarsa manutenzione. Noi soprattutto nel giro degli ultimi 2 o 3 anni abbiamo diminuito la produzione di conglomerato asfaltico, il che significa che si fa meno manutenzione, perché il conglomerato in Italia viene quasi usato tutto per la manutenzione, in quanto nuove strade da qualche decennio non è che difficile, sono rare. Infatti negli ultimi 2 anni è calata la produzione di bitume, questo sta ad indicare meno manutenzione. Cosa avviene nel resto d'Europa in questo senso invece? Invece nel resto d'Europa, in molti paesi, le cose vanno esattamente al contrario. Quindi non è che è una situazione generalizzata. Noi eravamo i secondi insieme alla Francia, adesso siamo diventati i quinti per produzione di conglomerato. Quindi ci hanno scavalcato in 3-4 paesi. Cerchiamo di fare anche gli ottimisti. Quali sono idee concrete per uscire da questa crisi? Noi abbiamo delle idee concrete, abbiamo delle proposte che cito rapidamente. Una è la reintroduzione di una moderna disciplina della revisione prezzi, regolamentata, controllata, così da evitare abusi ingiustificati, che è l'unica via per superare questi balzi, aumenti delle materie prime. È una proposta che stiamo presentando. La seconda è una modifica delle regole di attribuzione degli appalti, con l'individuazione di una disciplina correttiva dei sistemi di gara. E una terza proposta che presentiamo insieme a Finco, che è la filiera strade delle Confindustria, è la patrimonializzazione della rete stradale. Noi pensiamo che la rete stradale debba essere considerata un patrimonio e a questo punto potrebbero venire destinate maggiori risorse per la sua manutenzione e potrebbe essere gestita, diciamo, in un modo diverso. La patrimonializzazione è il presupposto per una politica di investimenti e di sicurezza, diciamo, e quindi per una gestione migliore di tutto il sistema stradale. Senta Presidente, è vero che nelle logiche di rifacimento delle strade conta, non dico sempre, ma prevale il parametro prezzo-costo invece che quello della durata nel tempo? Assolutamente prevale quello, è quello su cui noi stiamo combattendo, ecco, questa modifica delle regole di attribuzione degli appalti va proprio in quella direzione. Il meccanismo del massimo ribasso è un meccanismo suicida per le aziende che poi sono costrette ad arrangiarci. Le aziende più serie si trovano in grosse difficoltà con un meccanismo del genere. Quindi è quello che noi stiamo combattendo, cercando di far valere altri parametri che riguardano appunto la qualità dei lavori, l'innovazione, eccetera. E questo qui è uno dei fronti su cui ci si deve senz'altro impegnare, cosa che noi stiamo facendo. Fare un lavoro fatto bene, sì, vuol dire non doverlo rifare ogni 2-3 anni, vuol dire pagarlo apparentemente di meno, ma spendere molto di più nel giro di 10-20 anni. E certo, è la solita logica a breve termine invece che a lungo termine. Chiudiamo con una chiosa. Presidente, dobbiamo anche considerare che in Italia c'è il sole, c'è una temperatura mediamente più alta che in alcuni paesi nordici e notoriamente il freddo non fa bene all'asfalto. Il freddo non fa bene all'asfalto, esatto, non fa bene all'asfalto, ma non fa bene neanche il caldo all'asfalto, ma oggi ci sono delle tecnologie, delle innovazioni che possono far fronte a tutti questi problemi, appunto se uno sa valorizzarle, se un'amministrazione è in grado di superare tutte le difficoltà, gli orpelli legali che c'ha per valorizzare queste innovazioni, che ci sono, non ci sono dal punto di vista tecnico, non ci sono problemi. In questi ultimi 10-20 anni l'industria dell'asfalto ha fatto dei balzi, innovazioni elevatissime. La prossima volta che ci sentiamo le chiederò come mai ogni volta che parcheggiamo il nostro motorino buca l'asfalto. Questa sembra una battuta, ma lei sa che nelle città purtroppo è vero e si vede l'asfalto tutto bucherellato, visto il caldo che fa in questo periodo. Presidente Giavarini del SITEB, associazione che rappresenta la filiera dell'asfalto, la ringrazio tanto, a presto e buona serata. Grazie a voi, arrivederci. E adesso sentiamo invece il collega di Quattro Ruote, Roberto Barone, che è già in linea. Caro Roberto, buonasera, bentornato. Buonasera a te, buonasera agli ascoltatori. Con te parliamo per un paio di minuti di metano, perché se alcune spese per l'approvvigionamento energetico domestico sono scese anche su indicazione dell'Authority, tu ti sei preso la briga di chiedere a Federmetano più o meno la stessa cosa. Costerà meno il metano? Ma sì, diciamo che per noi è una sorta di tormentone questo del cercare di analizzare l'andamento del costo del metano. Lo facciamo periodicamente anche perché riceviamo moltissime email e anche messaggi sul nostro forum di automobilisti che lamentano appunto un andamento del prezzo abbastanza anomalo, diciamo prima in costante ascesa, adesso negli ultimi tempi leggermente in discesa, ma non quanto si attenderebbero. Ecco Roberto, a questo punto cosa ti ha risposto Federmetano alle vostre domande? Allora, Federmetano ci ha abbastanza rassicurato, in sostanza ci ha detto che il prezzo del metano dovrebbe scendere gradualmente fino a toccare quota 0,795 euro al chilo nel mese di ottobre. Tanto per far capire quello che è il prezzo attuale, diciamo un prezzo medio a seconda delle regioni e delle aree geografiche, andiamo tra lo 0,89 e 0,84 con delle punte di 0,90 e addirittura in alcune regioni, in particolare in Alto Adige, tocchiamo quasi l'euro. Anche di più, ecco. Beh, non è male se ci pensiamo, sono più di 10 centesimi, per 0,795 vuol dire 0,80, 0,80 ora è sugli 0,90 fino a 0,90, non è male. Esatto, però è importante anche dire che l'estate scorsa la differenza tra gasolio e metano era circa 60 centesimi, mentre attualmente si attesta tra 20 e 30 centesimi, quindi insomma è una differenza realmente esigua. Se poi facciamo il paragone col GPL, che attualmente costa attorno allo 0,50 euro al litro, capisci che insomma la convenienza del metano è ancora risibile. Monitoreremo questa situazione, lo farete anche voi, e ci sarà l'opportunità quest'estate di sentirci, ne approfittiamo, tu ben lo sai, per dirlo agli ascoltatori. Durante tutto agosto andremo in onda dalle 9 alle 10 di sera, dalle 21 alle 22, durante tutto agosto, un quarto d'ora più lunghi come contenuti, tutti freschi, tutti nuovi, con voci, mentre sarete in auto e magari un pochino in coda, non ve lo auguro, ma cercheremo di tenervi compagnia. Grazie Roberto Barone di Quattro Ruote. Grazie a voi, a presto. E chiudiamo in bellezza con la rubrica dell'avvocato Erika Lievore dello studio Lievore di Milano, e abbiamo già in linea l'avvocato. Buonasera. Buonasera Alessio, ascoltatori. Ci fa compagnia attraverso la nostra email, potete contattarla per diciamo così consegnarle indirettamente, perché lo fate a noi e noi giriamo all'avvocato Lievore i migliori quesiti, migliori nel senso quelli che hanno un significato per tutti gli ascoltatori. 4ruote@radio24.it. Cerchiamo di dare a tutti risposta, ma soprattutto attraverso il microfono. Fermo amministrativo, questo è l'argomento di oggi, decisamente interessante. Ci ha scritto Alessia e ha detto di aver ricevuto un preavviso di fermo amministrativo del proprio veicolo. Cosa deve fare avvocato? E così nella risposta le chiedo anche poi di inserire la definizione di fermo amministrativo. Prego. Allora, questo provvedimento di preavviso di fermo deriva da uno o più cartelle esattoriali che a loro volta derivano da uno o più multe non pagate. Quando arriva una cartella esattoriale si hanno infatti 60 giorni di tempo per provvedere al pagamento, e qualora anche dopo aver ricevuto una cartella esattoriale non si effettua il pagamento nei termini, Equitalia, che è l'agenzia che si occupa della riscossione nazionale dei tributi, invierà il preavviso di fermo amministrativo. A questo punto bisognerà saldare l'importo normalmente entro 20 giorni dalla ricevuta della raccomandata, scaduti i quali questo fermo diviene automaticamente efficace senza la necessità di un ulteriore preavviso all'automobilista. Ecco, se Alessia volesse risalire a quale infrazione avesse compiuto e che avesse portato alla cartella esattoriale, come potrebbe fare? Allora, innanzitutto l'ascoltatrice deve mettersi in contatto con Equitalia chiamando il numero che si trova sulla nota di preavviso e dare all'ufficio addetto il numero della cartella esattoriale o il proprio codice fiscale. Questo ufficio a sua volta fornirà un estratto di ruolo dove compare il numero del verbale relativo alla multa. Con questo numero di verbale è possibile chiamare il comune nel quale è stata commessa l'infrazione, e il comune sarà in grado di specificare qual è l'infrazione fornendo dettagli su giorno, data, ora, luogo e soprattutto sul veicolo che ha commesso l'infrazione. Su quale veicolo? È chiaro. Quali sono le conseguenze del fermo amministrativo, avvocato? Allora, innanzitutto diciamo che di solito il fermo viene fatto sul veicolo che ha commesso l'infrazione, ma anche se il veicolo sia stato venduto, il fermo potrà essere fatto anche su un veicolo diverso da quello che ha commesso l'infrazione, in quanto il fermo è normalmente legato alla persona e ai suoi beni in generale. Comunque, ovvia conseguenza del fermo sarà ovviamente il divieto assoluto di circolazione del veicolo. E chiudiamo con la consapevolezza che circolare col fermo amministrativo è grave anche dal punto di vista patrimoniale. Certo, infatti chi circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è soggetto a una sanzione del pagamento di una somma da 680 a 2723 euro, oltre alla confisca del veicolo stesso. Molto bene, io volevo ringraziare l'avvocato Erika Lievore che è rimasta con noi, 4ruote@radio24.it per giungere fino a lei. Grazie avvocato e buona serata. Grazie, buona serata a lei, suoi ascoltatori. E con la firma questa rubrica di Erika Lievore dello studio legale Lievore volevo ringraziarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo alle ore 21 su Radio 24 dove parleremo ancora di motori con temi decisamente interessanti e freschi. Fabio Cantadori è rimasto in regia con me, Roberto Rasia vi ha parlato e vi augura soprattutto un buon weekend e un'ottima guida.